si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, l'appuntamento con l'altra cronaca su Radio 24 il sabato in diretta e in attesa dei vostri interventi all'800 24 00 24 per raccontarci le vostre buone notizie e per commentare il tema che abbiamo scelto questa settimana. Abbiamo scelto di parlare, di partire dal dato sulla disoccupazione di lunedì scorso, un 18 milioni di disoccupati in Europa, una cifra senza precedenti, ma noi oggi vogliamo chiederci anche insieme a voi, se è vero che di fronte a questo non si può fare niente, se non si può reagire in qualche modo, o forse sarà vero come diceva il vecchio Gaber: andate a lavorare, i giovani non hanno voglia di lavorare. È vero. Risentiamo perché questa è una provocazione. Andate a lavorare, i giovani non hanno voglia di lavorare. È vero. Ma non è solo una provocazione, perché se è vero quello che leggiamo da un'inchiesta di Repubblica di qualche giorno fa, che, sentite, a Milano all'ultimo concorso per guardie mediche su 300 posti disponibili si sono presentati 99, ed è vero anche, allargando l'inchiesta, che ci sono vacanti posti per cuoco, nella ristorazione, nei negozi, nelle pulizie, panettiere, tappezzieri, falegnami, riparatori di orologi, lavoratori edili, camionisti, meccanici. È tutto vero. Allora noi vi chiediamo proprio questo, 800 24 00 24. Non sarà che seguendo queste strade si può uscire da una situazione difficile come quella attuale? Perché insomma di strade ce ne possono essere tre: studiare e crescere dal punto di vista della qualifica, oppure tornare ai mestieri della tradizione, come abbiamo detto, falegnami, sarti, tappezzieri, oppure tornare alla fatica. L'agricoltura è in crescita, ci sono posti in questo settore. È una provocazione, vedete voi, 800 24 00 24, vorremmo che a chiamare foste proprio voi che fate invece questi lavori difficili e oggi trascurati. 800 24 00 24, adesso qualche notizia della settimana. E visto che parliamo di disoccupazione, così, tanto per prenderla in allegria, questa è la notizia: disoccupato tinteggia la scuola e non chiede nulla in cambio. È accaduto che un quarantenne disoccupato abbia chiesto al sindaco della sua città, Villafranca Padovana, di rendersi utile e durante il mese di agosto, visto che non aveva nulla da fare, ha tinteggiato gratuitamente tutta la scuola. In 12 giorni ha rimesso a nuovo tutte le aule, l'atrio, la mensa, facendo risparmiare ben 10.000 euro. Insomma, anche se siamo in situazione di difficoltà, si può sempre dare una mano, sperando che poi torni in cambio. Altra notizia, sempre per il mondo dei disoccupati, viene da Arezzo. Fatevi avanti se siete disoccupati, prendete il tagliando per accedere a corsi di formazione per qualificarvi o riqualificarvi e così rimettervi in pista nel mondo del lavoro. Quindi se siete di Arezzo, fatevi avanti e aderite a questo bando. La prossima notizia è più che altro una segnalazione, la dobbiamo fare perché ci ha scritto un ragazzo che abbiamo sentito più volte, è un nostro ascoltatore, non voglio dire neanche il nome, è un poco più che ventenne di Brescia, non vedente, diplomato all'istituto, è come perito aziendale, conosce tre lingue, è non vedente, però sappiamo che i non vedenti possono lavorare per esempio benissimo nei call center. Allora chi ci sente dalla zona di Brescia forse può dare una mano, scriveteci, perché a noi sembra che sia una brava persona, che sia però scontrata col pregiudizio che purtroppo c'è ancora in giro sui ragazzi ciechi che cercano lavoro. L'ultima notizia ci porta in Emilia Romagna, siccome questo è un programma molto amico delle due ruote, allora leggiamo con piacere che il rapporto ISPRA 2012 sull'ambiente urbano pone ben 8 città della regione nella top 10 delle piste ciclabili in rapporto alla popolazione. Sul tetto d'Italia sale Reggio Emilia con 1026 metri ogni 1000 abitanti. Praticamente tutte le province dell'Emilia Romagna, all'eccezione di Bologna, sono nella top 10 per sotto questo aspetto. E tra l'altro c'è un legame con la prossima e la prima storia di cui parleremo oggi, cioè tra pochissimo. Andate a lavorare, i giovani non hanno voglia di lavorare. È vero. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore. Sono due ragazzi di Torino, poco meno, poco più che trentenni, adesso glielo chiederemo, Davide e Fuggetta e Marco Actis, che hanno messo su da poco più di un anno un servizio di Pony Express in bicicletta e hanno creato un piccolo giro di affari dimostrando che si può fare, si può rilanciare un mestiere come questo, dandogli una veste nuova, Pony Express zero emissioni. Chiediamogli allora, prima di tutto diamogli il buongiorno, Marco Actis, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Siete per strada, in mezzo al traffico, perché so che lavorate anche il sabato? Sì, sì, generalmente il sabato siamo a riposo, però lavoriamo su prenotazione, avevamo una cosina da fare, quindi sì, sono per strada in questo momento. Col vostro cellulare che rispondete alle chiamate di chi vuole prenotarsi per il vostro servizio. Da quanto tempo pedalate in mezzo alla città con questa nuova iniziativa? Guarda, noi abbiamo aperto l'anno scorso a fine settembre, proprio stasera facciamo una festicciola con amici, clienti, tutti quelli che hanno sostenuto un po' la nostra impresa per festeggiare questo primo anno che sentiamo come una tappa importante. Come vanno gli affari? Siete soddisfatti? Una startup, sappiamo ci sarà anche qualche piccolo investimento, quindi non è detto che si riesca a rientrare subito. Anche questo è un messaggio che bisogna dare a chi vuole iniziare a intraprendere un nuovo lavoro. Non è che ci si può aspettare di aprire un'impresa e nel giro di pochi mesi di essere già in guadagno. Come va? Sì, beh, assolutamente, ci sono state delle difficoltà, soprattutto iniziali, perché il nostro è un lavoro nuovo, quindi abbiamo dovuto anche lavorare sull'aspetto culturale della bicicletta, che rispetto ad altri paesi europei, non so, mi viene in mente la Finlandia, insomma tutti i paesi nordici, siamo un po' indietro, però insomma col lavoro e a fatica ci stiamo guadagnando la nostra reputazione e gli affari, devo dire, che piano piano crescono. Quindi siamo abbastanza soddisfatti per il momento. Ecco, ma è un progetto che dura, noi ci siamo posti come obiettivo, sì, 2 anni per tirare una valutazione. Ecco, esatto. Ma perché avete scelto, quindi ancora un anno di tempo per capire se il progetto è andato veramente a buon fine e può ancora crescere, perché avete scelto in effetti la bicicletta per rilanciare questo servizio di Pony Express che c'è in tutte le città, voi però puntate su questa cosa zero emissioni? Certo, sì, perché la bicicletta è un mezzo che dà la possibilità di muoversi in maniera molto, molto rapida per la città, può entrare nelle zone a traffico limitato, può attraversare i parchi e quindi è molto più competitiva dei classici Pony Express anche in motorino, perché nel traffico occupa uno spazio inferiore e quindi è più agile. E poi secondariamente tutto l'aspetto legato alle zero emissioni, quindi un'attenzione particolare alla qualità dell'aria, al traffico, al non occupare posteggi e anche al silenzio, a cui noi teniamo particolarmente. La bicicletta si muove senza far rumore. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Ma dove vai? Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Marco Actis del servizio Pony Express Zero Emissioni di Torino, lui e il suo socio hanno aperto da un anno, esattamente da un anno, questa società, questa iniziativa, e ce ne ha parlato. Allora, la domanda è questa, cosa ne pensi? È vero che insomma, voi avete fatto una scelta anche difficile, si fatica, si investe e i risultati si vedono, ma soprattutto si vedranno. Ci sono giovani vostri coetanei che secondo voi stanno un po' con le mani in mano, si può reagire, si può fare qualcosa di fronte alla disoccupazione, Marco? Ma guarda, sicuramente ci sono dei giovani che non hanno voglia di lavorare, come ci sono persone di mezza età che non hanno voglia di lavorare, anziani, insomma, ci sono però anche tanti giovani che questa voglia ce l'hanno e noi siamo in contatto con diverse realtà, con diverse associazioni che anche in modo volontario si muovono per dare un contributo, per dare una mano. Questa crisi si sente dal punto di vista lavorativo più come una paura, direi, più come un fantasma che spaventa e non permette di investire. Io credo che, noi crediamo, perché parlo anche a nome del mio socio Davide, crediamo che la crisi sia una possibilità, quindi invertire un po' il punto di vista, no? Tutte le difficoltà arrivano per trovare qualcosa di nuovo, per cercare qualcosa di nuovo. Siamo arrivati a questo punto perché così il mondo occidentale, l'Europa, l'Italia come la conosciamo, col suo modello economico, è un gioco che si sta un po' rompendo, no? E quindi si è sempre cercato di mettere dei cerotti, di mettere dei buchi. Io credo sia davvero arrivato il momento di creare qualcosa di nuovo. E voi l'avete fatto? Ci avete provato nel vostro piccolo. Il nostro nuovo gioco, esatto. Sì, va sì. Bene, allora insomma, buona pedalata, visto che anche oggi siete lì a lavorare. Marco Actis, Davide Grazie. Fuggetta, il suo socio, Pony Express Zero Emissioni. Questa è una storia che vi abbiamo raccontato, una delle tante possibili per reagire alla mancanza di posti di lavoro, ma come abbiamo già detto, come diverse inchieste mostrano, ci sono lavori per sarto, tappezziere, falegname e quant'altro che aspettano solo che qualcuno si faccia avanti. Allora 800 24 00 24, chiamateci. Voi che magari fate questo tipo di lavori oggi dimenticati, trascurati, raccontateci quanto sono belli, quante soddisfazioni possono dare a chi magari giovane, giovanissimo, sta cercando un suo futuro nel mondo del lavoro e chissà, magari può cambiare idea e recuperare una di queste strade. Ma siccome oggi parlavamo di questo argomento, non potevamo non farvi sentire Emma. La vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Non è l'inferno, Emma, insomma, la disoccupazione oggi, di questo stiamo parlando, è un po' il nodo centrale di questa Italia, di questo paese che ci piace sempre meno. Non è l'inferno, canta Emma, però per qualcuno è davvero l'inferno. Ma siccome noi in questo programma invece da mesi cerchiamo proprio di raccontare tutto quello che si muove sotterraneamente di diverso, di alternativo, di positivo, di propositivo soprattutto, allora abbiamo sposato l'idea di Daniel Tarozzi. Buongiorno intanto. Buongiorno. Direttore del cambiamento.it, un portale dove trovate molte notizie e che ha deciso di mettersi in viaggio per allargare ancora di più il quadro di queste notizie che, come anche noi facciamo, anche lui cerca di raccontare, un sito, l'italiachecambia.org, che è un blog nel quale Daniel adesso ci spiegherà, racconta tutti gli incontri che fa alla ricerca di un'Italia diversa, un'Italia che reagisce, non si arrende alla crisi. Lo fai mica in viaggio, in bici questo viaggio, Daniel, visto che abbiamo parlato di bicicletta? No, purtroppo no, mi sarebbe piaciuto, ma dovendo stare in giro 6 mesi, tra l'altro anche d'inverno. Sei in camper come Renzi? In camper, non come Renzi, è lui che ha imitato me perché io sono partito prima. Quindi... Ah, è colpo di scena. No, non ci tengo a non essere mischiato, con tutto il rispetto per tutti. Sì. È un'altra cosa. Sì, il sito, giusto per correttezza, è sì. italiachecambia.org senza l'articolo. E l'idea era fare un viaggio in questo paese, un paese che da nord a sud è fatto di storie che non vengono raccontate dai media, di giovani, anziani, ricchi e poveri, imprenditori, associazioni che cercano di reagire alla crisi economica e di valori costruendo un paese diverso. In questo viaggio, che appunto come ci stai raccontando, che stai facendo, credo che insomma anche il problema della mancanza di lavoro tu l'abbia incontrato, la mancanza di lavoro, di futuro, di prospettive. Come reagiscono invece le persone che tu stesso definisci l'Italia che non si arrende alla crisi economica e sociale? Qual è la reazione di chi propone e trova delle soluzioni? chiaramente non è un'Italia di persone sganciate dalla realtà, quindi le difficoltà sono tante, le incontrano tutti, ovviamente, quindi ci tengo sempre a sottolineare che la nostra idea non è quella di banalizzare un periodo che stiamo vivendo, però proprio perché ci sono difficoltà bisogna vedere come reagire, e quindi ci sono tanti tipi di persone, tante tipologie di giovani e non che si inventano nuovi lavori, ma forse oggi posso raccontarvi una storia in particolare, se vuoi che... Sì. Sono stato 10 giorni fa in Veneto e ho incontrato un gruppo di imprenditori, Antonio Barbiero, Michele Consolani e Giobatta Lunardi, che lavoravano per una multinazionale, una mega multinazionale che fatturava 70 miliardi di euro, aveva oltre 200.000 dipendenti, che a un certo punto decide di chiudere la filiale italiana. Una storia che abbiamo sentito più volte in questi periodi. Una filiale che tra l'altro era un'eccellenza, si occupava di refrigerazione, costruivano praticamente quei frigoriferi di classe che vengono venduti nei supermercati, un po' di qualità soprattutto in Europa, più che in Italia vendevano, e avevano 193 dipendenti. Nell'ottobre 2010 gli viene detto ad Antonio Barbiero di licenziare tutti, vendere i capannoni ed essere trasferito. Lui era il suo lavoro, ha dovuto licenziare tutti prendendosi anche insulti, ma poi con gli altri due suoi colleghi hanno deciso di licenziarsi anche loro e di riaprire un'azienda, questa volta italiana, la Galilei appunto Refrigerazione S.P.A., e pian piano riassumere le persone che avevano dovuto licenziare. Così un anno dopo sono riusciti a riaprire, hanno ripreso un capannone, prima ne avevano molti di più, ovviamente sono più piccoli, ma adesso hanno già fatto i primi prototipi, hanno riassunto per ora solo 4 persone, ma entro 5 anni il loro piano di business prevede proprio l'assunzione di 150 di queste persone che al momento sono in cassa integrazione. Quindi se tutto va bene, quasi tutti i loro dipendenti saranno riassunti, e ci raccontavano, a proposito dell'entusiasmo di cui parlavate poco fa, come adesso loro 3 più i 4 già che sono rientrati lavorino in un modo nuovo, entusiasta, perché comunque sentire che lavori per qualcosa di tuo, che stai costruendo qualcosa che poi durerà nel tempo e valorizzerà il territorio, ha anche quello un valore notevole. E questa è una storia che riguarda una grande azienda nel mondo dell'industria manifatturiera, ed è importante che ci siano delle storie così a lieto fine, e poi speriamo in prospettiva ancora di più. Ma è vero anche, Daniel, che c'è questo filone del recupero dei lavori perduti di alcuni mestieri? Noi abbiamo citato il sarto, il tappezziere, il falegname, lavori legati forse anche a una concezione più umile della professione, che forse molti ragazzi oggi snobbano, però qualcuno forse comincia a ripensarci su. Io credo proprio di sì. Io per ora sono partito ancora da poco, ho incontrato un artigiano che nel veneziano si occupa di fare le gondole, che è un'antichissima tradizione, io l'ho visto lavorare a mano, è un'arte meravigliosa, e che mi raccontava come appunto ci sia qualcuno che comincia a riavvicinarsi a questo tipo di lavoro. E poi ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che scelgono di tornare all'agricoltura, ma di farlo in modo consapevole e non vivendolo come un vulnus, ma come una conquista. Per cui io ne ho incontrati già molti di questi che riescono anche a mantenersi e anche a vivere bene, anche con bambini, con figli, lavorando nell'agricoltura e vendendo, autoproducendo tutto quello che serve, vendendo le eccedenze e vivendo dignitosissimamente. Ovviamente bisogna inventarsi dei modi, uscire dagli schemi vigenti, lasciare magari le grandi città, trovare posti dove le case costano meno, oppure alcuni di loro dicono non siamo disoccupati ma diversamente occupati, perché appunto guadagnano meno ma spendono meno autoproducendo e vivendo meglio. Che non è solo un gioco di parole, ma è anche la descrizione di una realtà diversa. Ci fermiamo qua, Daniel Tarozzi, ti ritroveremo sicuramente più avanti nel corso di questo tuo viaggio. italiachecambia.org, il blog, se lo volete seguire, ci racconterai altre storie. Grazie per ora. Grazie a voi e buon lavoro. Per salvare l'Italia è semplicissimo: turismo, turismo, turismo. Peccato che questi signori non abbiano ancora capito. Abbiamo il più grande mercato al mondo di turismo di vacanza, abbiamo il patrimonio artistico più grande del mondo, sole, mare e montagna. Che dobbiamo fare? Aspettiamo che questi decidano qualcosa? Facciamolo subito, l'unica vera grande risorsa. Ciao, grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Una provocazione, certo, quella di Gaber, perché noi lo sappiamo che i giovani in realtà hanno voglia di fare, hanno voglia di lavorare, non solo i giovani, insomma tutti hanno voglia di darsi da fare. Ci vuole magari un po' più di coraggio per andare a scegliere a volte quelle strade che sembrano lontane, sembrano precluse, mestieri più faticosi, mestieri dimenticati, che però, come dimostrano numerosi dati alla mano, invece offrono posti di lavoro. 800 24 00 24, in diretta, cari ascoltatori, su questo argomento. Poi c'è questa notizia bellissima, bellissima, che viene dalla Spagna: corsi di prostituzione contro la crisi, così si trova lavoro. Qualcuno potrà storcere il naso, ma in Spagna si parla anche di questo. Il manifesto con le promesse lavorative è apparso per le strade di Valencia. Già 100 persone hanno aderito e si sono iscritte all'Accademia del Piacere di quella città. I diplomati diventeranno o futuri professori dell'Accademia del Piacere, oppure verranno occupati nelle case di appuntamento di Brandon Morales, c'è scritto così, sparse per Valencia. Se siete interessati, cari amici, tutti a Valencia. 800 24 00 24, c'è Filippo che ci chiama da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Lei che mestiere fa? A me è successo una cosa, il microlinguaggio di lavoro, soprattutto uno, mi parlava che suo figliolo è come apprendista pasticcere, sì, che voleva imparare a fare il pasticcere, solamente che non lo pagavano. Doveva già riscuotere poco, su 400 euro mensili, però anche il datore di lavoro lo faceva facchinare e non lo pagava. Cioè una sorta di apprendistato non retribuito, cioè uno stage, ma bisogna vedere, perché se è uno stage per imparare ci può anche stare. Ma... No, proprio l'aveva chiamato come apprendista. E non lo pagava, ma questo non è un lavoro, questo è sfruttamento puro. Vabbè, insomma, io auguro più fortuna ai suoi colleghi, con i loro figli, in questo avviamento di pasticceri. Cari amici pasticceri, se siete all'ascolto e volete risollevare la categoria, dateci qualche notizia più tranquillizzante. Grazie intanto, Filippo, buona giornata. Buona giornata. Rita da Roma, buongiorno anche a lei. Buongiorno, volevo dire quello che io penso rispetto a questa situazione sul mercato del lavoro, che mancano molti posti per i giovani. Senz'altro è un problema molto grosso, ma credo che se diciamo i giovani cominciassero a pensare che non è umile diciamo rimettersi a lavorare nell'artigianato, e soprattutto noi come diciamo adulti, ma anche la società, pensassero che i giovani non devono andare tutti nei licei, ma gli ITIS dovrebbero essere, o l'alberghiero, sono delle scuole normalissime, e soprattutto forse dovrebbero essere anche più sponsorizzate. Io credo che diciamo qualche posto in più si potrebbe trovare. Grazie Rita, grazie di questo messaggio che speriamo venga ascoltato e seguito da molti all'ascolto. 800 24 00 24, tra poco altri ascoltatori. Più sogni e meno fai, più fai e meno sogni, prima lo si impara, poi rapper italiani che perepe qua qua qua qua perepe, politici italiani che perepe qua qua qua qua perepe. Si può fare, finalmente arriva un sito internet che inchioda i politici alle loro responsabilità, li inchioda in pratica alle promesse che hanno fatto. È un sito dove si può andare, bachecapolitica.it, e si può inserire una promessa di un politico, poi comincia a scattare il timer e si guarda quanto tempo è passato, e poi se qualcuna di queste promesse viene mantenuta c'è qualcuno che lo farà notare. Le promesse invece che rimangono lì per mesi, anni, ma il sito è partito da poco, saranno tutte naturalmente censurate, almeno saranno tutte messe alla berlina, perché non si possono fare delle promesse e poi non mantenerle, troppo facile, magari in campagna elettorale, ma non tutta la vita. Cari amici politici, ne parliamo con Marco Govoni, esperto di web marketing e fondatore di bachecapolitica.it. Buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno. Ciao Marco. Come vi è venuta questa idea, a dir la verità, curiosa e utile, forse ci si poteva pensare anche prima? Ma guarda, l'idea è venuta, come tutte le idee, così quasi per gioco. Leggendo un quotidiano internet, appunto su internet, ho visto una promessa che era stata messa con un timer. Vedendola mi è scattata appunto l'idea, ho detto perché non facciamo una bacheca, appunto, dove mettiamo tutte le promesse, ci mettiamo un timer per cercare appunto di dare visibilità a quello che i politici si promettono. Mm. E come funziona esattamente? Chi può inserire le promesse? Chi può verificare? Come funziona, Marco? Ma guarda, l'hai spiegato benissimo, il sito è molto semplice. Bacheca Politica, lasciami dire, vuole essere un nuovo modo per tenersi informati. È appunto una bacheca dove chiunque può attaccare, appiccicare una promessa di un politico. Poi le promesse vengono tutte filtrate dal mio team perché vogliamo cercare di avere dei contenuti coerenti, nel senso che non vogliamo che vengano caricate, che ne so, petizioni oppure messaggi politici generici. Noi vogliamo solo ed esclusivamente le promesse. Una volta che poi sono online si possono votare e commentare. Voi siete online da pochissimo, ci puoi raccontare qualcuna di queste promesse, qualcosa di curioso, qualche promessa che per esempio è già stata mantenuta? Siete online credo da meno di un mese, circa un mese, sì, e sì. Quindi non è che ci sia un grande trascorso per fare delle statistiche. Tra l'altro so che voi poi volete, avete in testa di fare anche delle statistiche per dare modo ai lettori di capire chi, quale partito, quale politico è stato più bravo in questo. Ce n'è qualcuna che ci vuoi raccontare, Marco? Ma guarda, allora, come dicevi tu, siamo online da meno di un mese, quindi da pochissimo. Quella che mi viene in mente è ad esempio la promessa che è stata in questo momento mantenuta del governo riguardante il decreto sull'agenda digitale. Quindi un qualcosa che è stato detto e che è stato fatto. Poi è chiaro che da promettere di fare il decreto a realizzare qualcosa di concreto c'è in mezzo un bel po' di strada, però diciamo è un qualcosa che è un primo passo. Vogliamo cercare di vedere anche la politica in modo positivo, non solo in modo come può essere negativo con questo alone di antipolitica che adesso aleggia. Beh, insomma, però adesso io aprendo bachecapolitica.it vedo tra le prime una promessa che non è stata ancora mantenuta, credo almeno. Penati, se rinviata a giudizio lascerò il Consiglio regionale. E questa tanto per non parlare di antipolitica, ma insomma, vabbè. Certo. È ovvio che i temi più scottanti, i temi principali fanno riferimento a episodi che possono tra virgolette definirsi di antipolitica, però anche questo può essere un modo comunque per informare. E tengo a precisare che chiunque può quindi segnalare l'eventuale promessa mantenuta o non mantenuta. Anche in questo caso viene effettuata una verifica sulla notizia per cercare appunto di tenere un contesto equilibrato. Mm. E come dicevo, mi avevi spiegato prima dell'intervista che tra poco, appena possibile, quando avrete dei dati sufficienti, passerete anche a fare delle statistiche proprio per valutare chi si è comportato meglio o peggio dal punto di vista delle promesse. Diventerete l'incubo dei partiti. Magari. Come l'opportunità dei partiti, sì, in effetti. Anche l'opportunità, certo, per chi esatto. Ha buone intenzioni. Esatto, ma in effetti, allora, diciamo che tra una settimana circa dovremmo lanciare già una prima pagina con le statistiche, dove inseriremo appunto quelli che sono i dati che abbiamo relativamente alle promesse mantenute o non mantenute, ma soprattutto anche quelle più votate in negativo o in positivo, perché bachecapolitica.it in realtà dà una grossa opportunità ai politici, che è quella di potersi mettere in gioco e di ricevere moltissimi feedback in maniera rapida e veloce in funzione di quelli che sono i loro propositi, quindi le loro promesse. Quindi è chiaro che sono nel cassetto e sperare che prima o poi un politico utilizzi appunto Bacheca Politica per pubblicare le proprie promesse, quindi si metta la faccia e si metta in gioco. Va bene, grazie. Allora vi verremo di nuovo a trovare e invitiamo intanto tutti a visitare il sito bachecapolitica.it per farsi un'idea e per vedere che sviluppi avrà questa iniziativa. Grazie intanto Marco Govoni, buona giornata. Grazie a te, grazie a tutti, ciao, buona giornata. È finita l'epoca del perepeppa qua qua, cari politici italiani, perché con l'arrivo di questa iniziativa bachecapolitica.it verrete smascherati, voi che fate delle promesse che poi non vengono mantenute. A me personalmente questa cosa piace tantissimo. Tra l'altro, a parte gli scherzi, ci sono paesi in Europa, in Nord Europa, come sempre, spesso alcune notizie arrivano da là, dove ci sono degli istituti proprio anche nazionali che si occupano di verificare le promesse elettorali che ricadute reali hanno sull'economia, per esempio in termini di budget. Allora tutto questo non è solo e semplicemente un gioco o uno scherzo. Bachecapolitica.it. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Questa è insomma la provocazione di oggi, ripescando un Giorgio Gaber dannata. Ci ha chiamato all'800 24 00 24 Simone da Firenze. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno Alessio. Senti, io avevo un pensiero che volevo esporre praticamente. Per agevolare questi ragazzotti, giovani, per inserirli diciamo nel mercato del lavoro, dell'artigianato, mi parlava di falegnami, parlava di elettricisti. Siccome questi sono lavori che richiedono qualche anno di apprendistato per arrivare ad essere produttivi e dare guadagnarsi diciamo lo stipendio e rendere produttivi per l'imprenditore, riporterei un po' indietro le cose, nel senso i vecchi apprendisti come ho fatto io ai 14-15 anni venivano stipendiati con contratti regolari, però leggermente o qualcosa meno di un operaio specializzato. Questo dava l'opportunità sia all'imprenditore di avere un'agevolazione nel prendere un apprendista al momento non produttivo, però tirandolo su e portarlo a una situazione insomma valida, una situazione, e dava la possibilità a questi ragazzi giovani di inserirsi in un mercato e diventare insomma operativi. Ecco il mio pensiero. Grazie Simone, anche per il suo ragionamento. Tutto utile, tutto torna utile oggi in questa puntata. Abbiamo parlato di artigianato, di lavori dimenticati, di lavori faticosi, quindi di opportunità di occupazione per i giovani e meno giovani, ma non trascuriamo naturalmente l'agricoltura. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco, esco, esco, esco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, pid, pid, quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. C'è la capra, capra, espiatoria, c'è il gomito, gomito, del tennista, e il tennista sconsolato non può più giocare. E va bene, dicevamo l'agricoltura. Oggi tra l'altro, anzi scusate, domani, domenica 7 ottobre, torna la Bio Domenica, una iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica in collaborazione con Coldiretti e Legambiente, una giornata nazionale di incontro tra il mondo agricolo e i cittadini per promuovere il consumo di prodotti sicuri e di qualità legati al territorio, alle sue tradizioni e alla sua cultura. Ed anche questo è, come dicono molte statistiche, un settore nel quale sicuramente trovare lavoro e occupazione. Non c'entra molto il prossimo ospite, non solo almeno con l'agricoltura biologica, però c'entra anche. E allora salutiamo Gianluca Faraone, ex presidente della cooperativa Placido Rizzotto, oggi presidente del Consorzio Mediterraneo. Buongiorno. Buongiorno. Si chiama così, buongiorno. Consorzio Mediterraneo. Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Libera Terra Mediterraneo, avete capito di cosa si parla. Parliamo di un consorzio di cooperative che lavorano sui terreni confiscati alla mafia, producendo tra l'altro anche magari possibilmente prodotti biologici, ma comunque prodotti della nostra terra, un settore anche questo che può dare lavoro, si è rinforzato proprio grazie all'esistenza di questo consorzio che ha dato una struttura di mercato a queste iniziative partite spesso sull'onda di grande entusiasmo. Gianluca Faraone, prima di tutto se avete un dato su quante persone, qual è il giro insomma economico di queste cooperative e quanta gente lavora su tutto questo di cui leggiamo spesso nei giornali, poi a volte però ci si domanda ma come vanno a finire queste storie? Ma oggi il Consorzio Libera Terra Mediterraneo associa 9 cooperative, che poi sono le cooperative che aderiscono all'associazione Libera, che è l'associazione che fa riferimento a Don Luigi Ciotti e che ha promosso in Italia la legge 109 del 96, che è la legge che ha introdotto l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sono 9 cooperative e ci apprestiamo a costituire la decima in provincia di Crotone, nei comuni di Isola Caporizzuto e Cirò, terreni confiscati all'Andrangheta. Queste cooperative sono dislocate nel sud Italia, la maggior parte in Sicilia, ma anche in Puglia e in Campania, e complessivamente ci avviciniamo a livelli occupazionali che riguardano più di 200 persone. Si tratta di una superficie coltivata che supera il migliaio di ettari. Le coltivazioni che vengono attuate sono tutte biologiche, molto diverse, perché diverse sono le vocazioni dei terreni che sono distribuiti nel territorio. Non abbiamo sbagliato a legarci alla Domenica Bio che c'è domani. Assolutamente no, va bene. E quindi due buone notizie in un'unica vicenda, questa qua del Consorzio Libera Terra Mediterraneo. E, quindi insomma, un movimento che è cresciuto in questi anni. Tra l'altro io so che è un po' presto, però avete un paio di appuntamenti l'anno legati alle feste, le feste comandate, diciamo, per esempio il Natale tra un po'. Pensateci, sì, cari ascoltatori, perché fare acquisti e fare regali di prodotti che vengono da queste cooperative è un'ottima idea per fare un regalo diverso, anche se non è Natale, magari se c'è un'altra occasione, no Gianluca? Sì, come si fa a farsi avanti in questo caso, se uno volesse... Fa in particolar modo attraverso il nostro sito, sì, bottegadiliberaterra.it, attraverso il quale si entra in contatto direttamente con il consorzio. È possibile sia per il singolo privato fare degli ordini, sia per delle aziende, che poi sono molte, che decidono di per le ricorrenze natalizie, ma non soltanto per quelle, di utilizzare i nostri prodotti per poter omaggiare non soltanto prodotti di alta qualità biologici, ma anche prodotti che hanno un contenuto di natura e una valenza di natura etica e sociale. Peraltro queste cooperative sono tutte cooperative sociali di tipo B, si occupano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E quindi qui arriviamo addirittura con la terza buona notizia, cioè nel senso addirittura diamo da lavorare anche a persone che partono con degli handicap e con degli svantaggi. Noi ci dobbiamo fermare qua perché per oggi abbiamo esaurito il nostro tempo. Grazie a te, grazie. Gianluca Faraone, grazie per questa bella iniziativa. Io voglio ringraziare Franco Piantanini in redazione, Giorgio De Luca oggi in diretta per l'assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma. Ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Sono Leonardo, telefono da Pisa. C'è una cosa che mi è sempre rimasta nella mente, ma quando un cassintegrato, oltre ad aver avuto il problema di non avere più il lavoro, e viene pagato magari al 70-80% di quello che era la busta paga, in quel periodo non potrebbe essere utilizzato dalle varie amministrazioni, che so, per pulire le pinete, per pulire i monti, per dare un servizio sociale per quel tempo che è pagato, e oltretutto eventualmente integrare per la differenza affinché possa essere di utilità pubblica. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero.